Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Oh, ma buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia, spero stiate bene, starete anche meglio seguendo la nostra trasmissione. Abbiamo Filippo Aureggi oggi in regia alla parte tecnica, è molto molto severo, Laura Vanossi sorridente, i titoli del giorno. Mano, un universo da conoscere e da proteggere. Reflusso gastroesofageo, chirurgia senza incisione. Costruire osso in laboratorio, la sfida è partita. Le mani parlano di noi, a volte dicono più delle parole, lo sappiamo bene. Oggi ribaltiamo la situazione, chiamate il nostro numero verde 800 24 0024 e diteci tutto di loro. Se qualcosa è cambiato nella loro forma, se non rispondono più come una volta, se si addormentano, formicolano, se sono particolarmente sensibili, avvertono di più la fatica o se sono meno forti, non afferrano più come una volta. Chiamateci anche per dire che va tutto bene, succede nella maggior parte delle mani, e diteci come ve ne prendete cura. In ogni caso abbiamo a disposizione un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Giorgio Paiardi, direttore dell'Istituto di Chirurgia Plastica all'Università degli Studi di Milano e dell'Unità Operativa di Chirurgia della Mano al Policlinico Multimedica, che è un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico. Professor Paiardi, buongiorno. Buongiorno, una qualifica lunghissima. Abbiamo in linea con noi da Firenze la dottoressa Giulia Guidi, che è laureata in fisioterapia ed è presidente dell'Associazione Italiana Riabilitazione della Mano. Dottoressa Guidi, buongiorno. Buongiorno. Allora, e benvenuta. Professore, grazie. Stavo pensando che la mano ha proprio un chirurgo ad hoc, tutto dedicato a lei, insomma come se fosse una grande star. E per fortuna, perché la mano è così complicata che guai se così non fosse, tra cute, ossicini, tendini, vasi, nervi, insomma di lavoro ve ne dà parecchio. Sicuramente sì, però come giustamente diceva lei, se pensiamo a quanto e come usiamo le mani, in fondo ce ne dà ancora poco, perché la maggior parte delle mani funziona e quando funziona un po' meno e un po' più dolente si arrabatta in qualsiasi modo, però alla fine ci vestiamo, mangiamo, lavoriamo, certo, ci divertiamo nonostante tutto. Insomma, la strada non è sempre segnata, professor Paiardi, però nel senso che la maggior parte delle nostre mani funziona bene, ma a volte qualche piccolo problema lo dà, e noi appena ci sentiamo con un piccolo dolore alla mano e insomma ci sentiamo subito in qualche modo in difficoltà, no? Perché ha anche un valore psicologico la nostra mano. Sicuramente ha un doppio risvolto psicologico. Il primo è quello, diciamo, della socializzazione, perché la mano insieme al volto è, quantomeno nella nostra civiltà, la parte del nostro corpo che è abitualmente scoperta e quindi è il nostro biglietto da visita, sì, dell'età, di quello che facciamo, un po' della nostra personalità. E poi perché le mani lavorano incessantemente, dicono soprattutto noi italiani che gesticoliamo anche mentre parliamo, e intanto però ci facciamo capire, e quindi basta a volte un tagliettino su un dito, qualche sì, cosa che ci rende invalidi, e siamo abituati a dire, ma io, per chi è destrima, nella sinistra la usa poco o il contrario, basta poi avere un cerotto e ci accorgiamo e come di quanto usiamo entrambe le mani. Dottoressa Guidi, dicevo, la mano ha un chirurgo ad hoc, ma adesso ci sono proprio anche i terapisti della mano. Sì, terapisti della mano, fisioterapisti o terapisti occupazionali che si dedicano proprio alla riabilitazione della mano. Siete pochi in Italia, lei è quasi una mosca bianca, un presidente delle mosche bianche. Quante siete in tutti? In tutto? Siamo una 35 circa. Però siete proprio specializzati nell'aiutare le persone che hanno avuto traumi, operazione, a recuperare la funzionalità della mano. Certo. E collaboriamo con i chirurghi della mano e con i reumatologi. C'è un sito dove i nostri ascoltatori possono trovare proprio gli esperti che si occupano di riabilitazione della mano, è molto semplice, riabilitazionedellamano.com. E lì trovate appunto tutte le persone che hanno studiato, si sono preparate, lavorano in collaborazione con i chirurghi della mano e quindi un'ultra specializzazione. Ma oggi approfitteremo della dottoressa Guidi, perché se voi avete qualcosa nella vostra mano che vi disturba, magari non riuscite bene più ad afferrare gli oggetti, vi fa male, avete avuto un'operazione, la dottoressa Guidi ci aiuterà suggerendoci alcuni esercizi che possiamo fare noi da casa. Naturalmente per i casi più seri il riabilitatore deve seguire passo passo la persona, noi facciamo un po' una via di mezzo e naturalmente il professor Paiardi ci aiuterà invece a capire qual è la causa del nostro problema, come si deve intervenire, anche se, professor Paiardi, non sempre bisogna passare la mano al chirurgo. Assolutamente, difatti direi che in fondo la definizione stessa di chirurgo della mano è un po' limitativa, verrebbe più da dire riabilitatore della mano, medico della mano, perché anzitutto ci vuole una diagnosi corretta, che non è poco, un approccio globalmente riabilitativo che può in alcuni casi vedere anche una fase chirurgica. Ci vuole una visione un po' più di insieme. Allora, senta, professor Paiardi, fuori le mani, guardiamole. Io approfitto già per averle in studio, dato che lei ha portata di mano, per darle le mie, in modo che lei, partendo dalle mie mani, aiuti i nostri ascoltatori da casa a fare una sorta di autovisita. Insomma, ci insegni l'occhio clinico. Le do la mano? Facciamolo. Lei tanto la vede di qua. Ce l'ho, allora, ce l'ho. Partiamo. Diciamo che la mano abbiamo detto che è sempre esposta, quindi si può anche visitare per strada, vedere al bar, e quindi anche il paziente ce l'ha sempre appresso e la osserva. Naturalmente non vogliamo creare dei malati immaginari, ci mancherebbe altro, però bisogna a volte andare un pochettino sotto la pelle, non limitarsi, sì, al fatto che siccome magari c'è una cisti, allora il dolore viene per forza da lì. Quindi possiamo grosso modo distinguere, per darci un ordine, tra quelli che possono essere i disturbi che sono maggiormente concentrati sulla parte dorsale della mano, sì, da quelli che sono invece più concentrati sulla parte volare. Sì. E diciamo subito che questi ultimi, cioè quelli volari, sono spesso quelli più fastidiosi, perché afferrare ha a che fare con la vita. Certo. Uno può avere qualche fastidio nell'astendere, cioè nell'aprire la mano, però se la cava egregiamente, se invece ha difficoltà a afferrare, diventa difficile lavarsi, vestirsi o mangiare. Però partiamo dal dorso, che è quella che incontriamo, che la vediamo di maggiormente, e le patologie principali possono riguardare la componente tendinea. Sì, e che sono queste specie di corde che vediamo, che vediamo, sono che il paziente evidenti. Dice, professore, mi fa male i nervi. Sì, invece sono corde, sono, sì, tendini, come il tendine d'Achille per il piede, come il tendine bicipite, che sono forse più noti, e hanno la funzione di sollevare le dita. Sì. A volte possono essere infiammati i tendini delle dita lunghe, più, sì, frequentemente possono essere infiammati quelli del pollice, a dare una patologia che si chiama, dal nome di chi l'ha definita, morbo di De Kerven, sì, ed è una patologia che comporta un dolore spiccato nell'aprire molto la mano o nell'afferrare. Vi fa male? Provate. È no, frequente, è una curiosità, nelle donne dopo la gravidanza, quando devono gestire bambino, biberon, telefonino, aprire la porta di casa, quindi con una mano sola fare tutto, la tengono aperta tipo uomo ragno, e quindi questa continua e prolungata sollecitazione comporta l'infiammazione. Noi abbiamo molte mamme all'ascolto, per cui molte mamme che stiamo seguendo anche con una bella iniziativa, una volta al mese le mamme vengono in trasmissione portando il loro tema, e quindi alle mamme in ascolto chiamateci, soprattutto se avete bambini che state allattando, li portate in giro con biberon, telefonini, 824 0024. La forma delle nostre dita che può cambiare, professor Paiardi, può darci qualche indizio? Diciamo che la mano è soggetta a evoluzione, come tutto il resto del nostro corpo, e non necessariamente è patologica, sì, anzi è fisiologica. Può sembrare strano, ma il concetto stesso di artrosi, che è questa parola dentro cui nascondiamo tante cose che non conosciamo, di per sé è un evento quasi fisiologico, rappresenta l'evoluzione del nostro organismo. Spesso le dita hanno un affetto, un aspetto, scusate, un po' più nerboruto, soprattutto a livello della base dell'unghia, in cui possono comparire dei noduletti o quantomeno un allargamento dell'articolazione, elemento che questo preoccupa spesso soprattutto le donne, perché sotto l'impatto, come dire, sociale, morfologico, è un elemento che a volte denota un po' l'età, insomma. Chiediamo alla dottoressa Guidi se vuole aggiungere un dettaglio nell'osservazione delle mani, poi andremo ad ascoltare che cosa ci dicono. Abbiamo magari il dolore che può essere a fitte, può venire durante il movimento, può venire a riposo, di questo parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. Ma dottoressa Guidi, sottolineo un aspetto, magari il professor Paiardi ne ha tralasciato uno. Ma sicuramente è importante valutare anche come una persona appoggia la mano su un piano di lavoro, su un tavolo, perché spesso non si rispetta una certa posizione corretta. E l'altra cosa, se si possono notare delle articolazioni e si finiscono lasse, spesso tipiche nell'adolescenza, e quindi la persona utilizza la mano in maniera scorretta. Non ho capito quando è corretta e quando è scorretta riguardo all'appoggio della mano. Tutto l'avambraccio deve essere appoggiato, sì. E invece frequentemente si vedono persone che lavorano anche al computer, spesso, che suonano strumenti musicali, che spesso quando chiediamo di appoggiare la mano sul piano di lavoro sollevano l'avambraccio, ecco. E quindi affaticano la mano. Ecco, quello che sto facendo io invece. Anche, devo dire, faccio la spia anche il professor Paiardi, mi sa che non abbia appoggiato bene l'avambraccio. Allora, di questo parleremo, quindi guardate, osservatevi, soprattutto se magari ci state seguendo mentre lavorate al computer, occhio a come tenete la mano, ripercorrete un po' i punti che ha evidenziato il professor Paiardi e poi vi aspettiamo per lamentarvi delle vostre mani. Che cosa vi dicono? Formicolano? Fanno male? Siamo qui, 800 24 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso parliamo di reflusso gastroesofageo, un disturbo molto diffuso, i numeri sono alti, si parla di 11 milioni di italiani che, volenti o nolenti, si trovano a sopportare e quindi a gestire una serie di sintomi tipici dell'esofago irritato dalla risalita del contenuto gastrico, e quindi bruciore, acidità, rigurgito, a cui se ne associano altri che i medici chiamano atipici, come ad esempio il dolore toracico, la rinite, la tosse secca. Bene, nei casi in cui è indicato l'intervento, si aprono nuove prospettive, ci sono buone notizie. Infatti è stata ideata una tecnica che riproduce per via endoscopica, quindi in modo, diciamo, meno invasivo, la tecnica tradizionale. Ne parliamo con il professor Pier Alberto Testoni, che è in linea con noi, è direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. Professor Testoni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Professore, allora, la novità sta nel riprodurre con l'endoscopia lo stesso trattamento che viene praticato con la chirurgia classica, il tutto senza incisioni e cicatrici. Questo è sicuramente un bel passo avanti. Ma sicuramente è un passo avanti nella tecnica chirurgica, perché questo è un intervento che viene fatto per via endoscopica, cioè con un endoscopio normale attraverso la bocca, come fosse una normale gastroscopia, e permette di riprodurre una valvola nuova neoformata tra esofago e stomaco, tale da bloccare il reflusso gastroesofageo, però senza ricorrere alla chirurgia, e quindi con minore complicanze, minori costi e comunque minore impegno per il paziente. Professor Testoni, però ricordiamo che, come sempre, la riuscita di un intervento dipende dalla corretta indicazione. Insomma, la facilità, la bassa invasività del trattamento di cui stiamo parlando non deve indurre ad un ricorso inopportuno, eccessivo a questa metodica, perché sicuramente prima di tutto bisogna modificare lo stile di vita, poi in una seconda battuta entrano i farmaci, la terapia farmacologica, che può ridurre sicuramente il problema. Professore, quindi proprio in casi estremi, quando è necessario, possiamo dire ai nostri ascoltatori che c'è anche questa opzione. Ma come lei dice correttamente, sicuramente la malattia del reflusso ha un approccio diversificato nella terapia, perché per le forme di lievi in cui prevale il bruciore saltuario ricorrente o modeste basta la norma dietetica, fare una dieta povera di grassi, ridurre gli alcolici, evitare sostanze che creino reflusso come il fumo, il caffè, la cioccolata. Però quando la malattia ha una sintomatologia più persistente, o soprattutto quando compaiono i sintomi extraesofagei, quelli non tipici che lei ha segnato prima, come la tosse, l'asma, eccetera, la dieta ovviamente non basta più, occorre fare una terapia medica che è sempre basata in prima partenza sull'uso di farmaci che bloccano la secrezione acida gastrica, cioè gli inibitori di pompa protonica. Solo quando questi farmaci falliscono o funzionano ma a dosaggi molto elevati, per cui è inopportuno prolungare nel tempo per tanto tempo, o se esistono condizioni di riflusso alto difficili da bloccare e non rispondenti ai farmaci, allora è indicato l'intervento chirurgico. A questo punto, e quindi una casistica selezionata, si pone la scelta oggi tra chirurgia laparoscopica e chirurgia endoluminale, che è quella che viene fatta con questo tipo di intervento. Quindi abbiamo un'opzione in più, e questo sottolineiamo è sicuramente un passo avanti che abbiamo raggiunto grazie all'impegno della ricerca e grazie anche al ricorso alla tecnologia. Professor Testoni, la ringrazio per essere stato con noi, so che lei deve scappare, è in corso tra poco una conferenza, per cui la lascio e la ringrazio, spero di averla presto qui a Radio 24. Grazie anche a voi e buona giornata, grazie. Pronto soccorso. Torniamo ad occuparci delle nostre mani, invecchiano, è vero, e diventano doloranti. Si può fare qualcosa, professor Paiardi? Inizio subito da questo SMS di Maria Giovanna per riprendere il tema del giorno. Ci occupiamo delle nostre mani, invitiamo quindi gli ascoltatori a chiamarci. Abbiamo imparato ad osservarle, abbiamo anche imparato a capire dove le mettiamo queste mani. La dottoressa Guidi ci ha dato questo spunto molto interessante. Adesso proviamo ad ascoltarlo. Le mani possono dare dolore. Possono dare entrambe le mani dolore o una in particolare, ma io vorrei fare prima una grande distinzione tra il dolore che insorge durante il movimento e quello che invece insorge a riposo. Alcuni ascoltatori mi scrivono già, ad esempio, dolore notturno alla mano destra, alla mano sinistra, a entrambe le mani, quindi le mani di notte dovrebbero essere ferme, a riposo. Cosa succede, professore? Diciamo che, come avviene nel resto dell'organismo, noi possiamo avere dei dolori che dipendono da o articolazioni o tendini, quindi più facilmente, soprattutto quelli di natura tendinea, sono legate all'espletamento di un movimento, anche un movimento banale. Soffiare il naso sembra una sciocchezza, però chiamare al pollice vorrebbe evitarlo. Dolori assolutamente spontanei che sono di solito più di natura neurologica, che sia mal di denti, che sia la sciatica, che sia il canale carpale per la mano, è un dolore che è del tutto slegato dalla gestualità. Che poi certi disturbi si enfatizzino durante le ore notturne è legato a tanti elementi. Primo, perché globalmente, per una serie di motivi, il nostro organismo è più sensibile di notte al dolore. Quando uno ha mal di denti passa la notte in bianco, di giorno si gestisce un po' meglio. Sia perché di notte, abitualmente, a meno che uno non abbia proprio un sonno agitatissimo, siamo fermi, più o meno immobili, quindi si creano delle situazioni di stasi, di raccolta di liquidi che costituiscono, nel vero senso della parola, la goccia che fa traboccare il vaso, e da lì in poi si instaura un problema doloroso. È ovvio che poi, se ci svegliamo anche, non siamo di buon umore e siamo ancor meno tolleranti a sopportare il fastidio, e questo fa la differenza. Dottoressa Guidi, ho male alle mani, posso fare qualcosa che durante questa fase dolorante per alleviare? Posso venire da lei a farmi suggerire magari un esercizio che allenti un po' questa morsa dolorosa? Ma sicuramente sì, appunto bisogna vedere da dove viene il dolore. Nel caso del dolore al pollice, per esempio, frequentissimo nelle donne, io potrei confezionare un tutore in modo da tenere ferma una sola articolazione, sì. Quindi consento alla persona di muovere ugualmente la mano, però contemporaneamente il paziente impara a non muovere quell'articolazione. Il tutore, che è confezionato su misura, consente di tenere fermo l'articolazione dolente, le mani si muovono e il paziente però impara contemporaneamente a non usare quella mano nel futuro, quell'articolazione nel futuro quando deve rimuovere la mano. Quindi io posso insegnare gli esercizi e posso confezionare un tutore. Perché dice posso confezionare un tutore? Perché deve essere fatto su misura, un po' come il plantare dei piedi? Ma ce ne sono alcuni già pronti? Esistono dei tutori già pronti, commerciali, che si comprano nei negozi, ma di solito è consigliabile confezionare un tutore su misura sulla mano del paziente, perché ogni paziente può avere una falange più lunga, certo, o più corta, e quindi in realtà è come un plantare comprato e chiaramente non può essere adattabile a tutti. Insomma, è come farsi un abito su misura. Esatto. Se non possiamo avere il lusso di confezionare un abito su misura, almeno il tutore. Rosanna da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a voi. Che succede, Rosanna? Succede che più che parlare di dolore parliamo di intorpidimento notturno, praticamente ad entrambe le mani. Sì. Un formicolio spaventoso che cresce. Sì. Cresce tanto durante la notte, fino purtroppo a svegliarmi. Che Non è piacevole, certo. Ecco, non è un dolore, è un fastidio veramente molto molto forte. E a questo poi si aggiunge il risveglio. Sì. mi permetto di sorridere perché è divertente, nel senso che mi ritrovo con il pollice destro bloccato, diciamo, in un certo senso, per cui devo così praticare una piccola ginnastica. Sì. Deve svegliarlo per riattivarlo. C'è praticamente uno scatto. Sì. Ecco, avviene uno scatto per cui dopo insomma e tutto riparte. Professor Pagliardi, prima dei mercati, possiamo dare un'indicazione a Rosanna? La diagnosi di fondo, per quanto posso dedurre dagli elementi che mi ha fornito, è, diciamo, la guest star del nostro mestiere. Abbiamo dedicato varie trasmissioni a queste sede, quindi è la sindrome del canale carpale. Ma lei ce l'ha tutte e due, mi sembra. Per definizione la patologia bilaterale. Sì. Probabilmente ha anche associato un dito a scatto, che è un argomento che poi avremo modo di riprendere nel prosieguo della trasmissione. È una patologia che nelle fasi assolutamente iniziali può avere un significativo sollievo col confezionamento di un adeguato tutore. Sì. Nella maggior parte dei casi, e come regola nel momento in cui la patologia è avanzata, come descrive la signora, vi è un'indicazione chirurgica. Abbiamo spesso sottolineato che vi sono varie tecniche chirurgiche. Non vi è dubbio che nel mondo globalmente inteso della chirurgia, e quindi anche della chirurgia della mano, l'approccio endoscopico è quello più corretto, permette di operare e dare subito libertà di movimento alla mano, e nei casi più avanzati è possibile anche operare le due mani contemporaneamente, visto che non viene limitato il movimento della mano, il buco di accesso viene chiuso con un goccio di colla, quindi non ci sono punti di sutura. È sicuramente un disagio perché è un gesto chirurgico, però il paziente si prepara la cena da solo la sera, insomma. E soprattutto dorme, nel caso della nostra amica. Esatto. Voilà, eccoci qua, 824 0024, mani, questo è il tema del giorno, però adesso andiamo a sentire le ultime novità dal mondo della medicina e della scienza e torniamo sempre ad occuparci delle nostre mani. GR Salute. Costruire osso in laboratorio è la sfida della medicina rigenerativa e dell'ingegneria tessutale. Professor Bruno Gridelli, direttore dell'ISMET, Istituto Mediterraneo per i Trapianti di Palermo. È calcolato che ogni anno in Europa circa 3 milioni di persone vadano incontro a incidenti o a interventi chirurgici che comportano la perdita di grossi segmenti di osso. Per sostituire questi segmenti di osso perduti, quello che stiamo cercando di fare in laboratorio e su cui stiamo lavorando è di produrre, utilizzando cellule staminali e delle matrici, cioè un tessuto di sostegno che sia biocompatibile, stiamo cercando di produrre ossa che possano essere utilizzate appunto per riempire questi difetti conseguenti a traumi ed interventi. Questa è una prospettiva di enorme importanza per la popolazione, perché limiterà naturalmente tutte quelle che sono le invalidità che possono essere conseguenti a perdite gravi di tessuto osseo, e che anche ridurrà il costo sociale degli incidenti e di chirurgia altamente distruttiva. Piano terapeutico congelato per i pazienti affetti da glaucoma che possono avere liberamente accesso alle terapie più innovative. Professor Pasquale Troiano, clinico oculistico all'Università di Milano presso l'ospedale Policlinico, presidente della ONLUS per Vedere Fatti Vedere. L'Agenzia Italiana del Farmaco, con un decreto del 28 maggio 2009, ha deciso di congelare la necessità di erogazione del piano terapeutico per i pazienti che devono ottenere i farmaci più innovativi per la cura del glaucoma. Per 6 mesi tutti i pazienti che hanno la necessità di questi farmaci non devono più richiedere il piano terapeutico all'oculista, né tantomeno dover poi consegnare le varie copie del piano terapeutico alla ASL e al medico di base, ma si rivolgono direttamente al medico curante, che rilascia sul ricettario regionale, sul ricettario del Sistema Sanitario Nazionale, la prescrizione dei farmaci di cui hanno bisogno senza altri obblighi sul piano burocratico. E siamo tornati ad occuparci delle mani e abbiamo Lara che ci chiama da Verona. Lara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Io chiamavo perché stavo ascoltando la vostra trasmissione e mi sono così un po' risvegliata. Nel senso che ho sbattuto il mio dito indice della mano sinistra contro una gamba di un tavolo. E subito questo dito si è gonfiato. Poi io avevo messo una pomata così di quelle contro le contusioni eccetera. Sì. E questo dito si è sgonfiato, io lo uso normalmente eccetera, però così a volte penso che magari non abbia sottovalutato troppo questo incidente. Perché chiudendo il pugno sento che il dito non si chiude come gli altri. Sì. Cioè mi resta come un po' più sollevato. Fa un po' fatica, Lara. Faccio un po' più fatica, sì. E se premo con l'altra mano sopra questo dito, un po' mi duole. Allora, volevo sapere se per caso io mi devo un po' preoccupare, magari per il futuro o... Ma no. No, adesso io stavo dicendo professor Paiardi, ma no Lara, non si preoccupi, ma tocca al professore dirlo. Professore, mi scusi, mi sono allargata un po'. No, ci mancherebbe, ormai è quasi un'esperta, daremo la laurea honoris causa. Allora, diciamo che assai frequentemente, non soltanto dai pazienti, ma anche dai pronto soccorsi e purtroppo anche da parte degli specialisti, si tende a trascurare un evento traumatico soltanto perché la lastra è negativa. Diciamo, sì. Mi sono fatto male, per fortuna non è nulla perché non c'è la frattura. Purtroppo noi sappiamo che spesso, anche in altri segmenti corporei, ma nella mano che ha questa valenza così delicata vale ancora di più, quasi quasi sarebbe meglio una bella frattura, perché ci sono delle lesioni, delle articolazioni, dei legamenti che rendono talvolta difficile un recupero funzionale valido, soprattutto quando o l'intervento chirurgico, ma molto più frequentemente l'intervento riabilitativo, non è preciso e sollecito. Ora, questa articolazione che si chiama interfalangea prossimale, cioè diciamo la nocca del dito, quella più vicina alla mano, non quella vicina all'unghia, quella che sta vicino alla mano, è limitata e quindi il dito non si flette del tutto e non si estende del tutto, è perché c'è stata una lesione più o meno significativa della capsula che non è stata riabilitata tempestivamente. Allora, alla signora vorrei dire che il suo danno, stia tranquilla, nel senso che il suo danno di adesso è stabile, cioè non succederà nulla di peggio in futuro. Però mi farebbe piacere chiedere a Giulia di dare delle indicazioni sul trattamento riabilitativo e di splint che bisogna fare nell'immediato in questi casi. Grazie, dottoressa Guidi. Giulia per il professor, Giulia per gli amici. Diciamo, in questi casi sicuramente avremmo dovuto inizialmente confezionare un tutore in modo da fare in modo che la mano sgonfiasse, eventualmente utilizzare un bendaggio per cercare di ridurre l'edema e cercare di trovare poi il movimento in maniera selettiva di quell'articolazione, quindi insegnare degli esercizi in modo da tenere ferma la prima falange e chiedere proprio di piegare le altre due. Ci sono anche altri tipi di esercizi come utilizzare cercare di fare la O con i due polpastrelli, ma soprattutto la cosa importante è rimuovere in maniera selettiva solo quell'articolazione. E questo una fase successiva, eventualmente ormai troppo tardi, comunque avrebbe potuto fare della paraffinoterapia in modo da cercare, cioè, mi scusi, cosa m'ha detto? Immergere la mano in una specie di cera calda, il termine corretto è paraffinoterapia, che fa rilasciare un pochino, cioè è un calore endogeno e quindi la capsula articolare si distende ed è più facile dopo fare gli esercizi. Dottoressa Guidi, quindi, dato che adesso comunque andremo al mare, partite, no, anche tutti ci improvviseremo sportivi, è facile rimetterci, magari prendere una botta a un dito. Alcuni ascoltatori mi scrivono, infatti, gioco a pallavolo, ho avuto dei piccoli traumi alle dita, non sono più come prima. Quindi, se noi prendiamo la classica botta al dito, ghiaccio e poi non abbiamo subito il riabilitatore della mano sotto casa. Possiamo metterci un tutorino di quelli che compriamo in farmacia, aspettiamo? Sì, oppure anche una stecchina a una bassa lingua per tenerlo fermo in attesa di andare dal riabilitatore per fare un tutore su misura. Mm. Però quando siamo in vacanza possiamo... Cerchiamo di tenere fermo il dito, se il dito è gonfio e il dito duole, e soprattutto se quando cerchiamo di fare il pugno sentiamo che c'è come un ostacolo e si sente del dolore, è bene tenerlo in questa fase fermo. Mm. E poi quando torniamo a casa ci facciamo visitare. Ci facciamo dare un'occhiata. Professor Paiardi, di tutte le dita mi sembra che il pollice sia quello che ci può dare più problemi. Abbiamo parlato del pollice, delle mamme che fanno un po' l'uomo ragno, come ha detto lei, che quindi possono avere questo dolore, ma il pollice ne ha diverse di avventure, si afferra male, dolente. Come mai questa fragilità? Lui che è così bello è il più grassoccio degli altri, no? Ma in sembra realtà, un tipo tosto il pollice, invece ne ha sempre è una. Tostissimo, ecco. È tostissimo. Dovremmo fare forse un piccolo passo indietro e domandarci, nella nostra idea abbiamo sottolineato che la mano non è soltanto un organo meccanico, ma è anche comunque l'espressione di una personalità, di una filosofia, di un cervello, di un pensiero. Che cosa pensiamo noi che sia la mano? Mm. Sono cinque dita? Assolutamente no. Non sono quattro, potrebbero essere sei. Ma è un organo che permette di afferrare. Per afferrare noi abbiamo bisogno anche solo di due segmenti digitali che siano in grado di avvicinarsi per afferrare lo strumento che si insinua tra di loro. E questo è fondamentale quando noi affrontiamo, per esempio, le malformazioni congenite dei bambini, in cui non andiamo a ristrutturare soltanto, pur essendo importante, un qualcosa di morfologico, ma soprattutto dobbiamo ripristinare una funzione. La funzionalità. Il pollice è l'unico segmento nell'intero mondo animale che è in grado di muoversi quasi su un angolo piano. Quindi, per intenderci, è in grado di roteare con un ampio grado di movimento e quindi permettere una quantità infinita di movimenti. Quante ne sa, professore? Quindi, vero? Questa sua mobilità è associato, come diceva giustamente Giulia prima, a un uso spesso scorretto o non del tutto corretto, comporta un significativo sovraccarico. Prima abbiamo citato il morbo di De Kerven, abbiamo sentito dalla signora prima della pausa di questo pollice che scatta, quindi abbiamo introdotto il concetto del dito a scatto e la dottoressa Guidi prima citava il problema della rizoartrosi o artrosi trapezio metacarpica. Quindi in sostanza il pollice nella sua componente ossea, quindi artrosi dell'articolazione, e nella sua componente tendinea, quando sale De Kerven, quando scende pollice a scatto, può avere degli scricchiolii che in qualche modo ne limitano la funzione. Però non associamolo all'idea del sesso, dell'età, della funzione, perché è un fatto strettamente meccanico. Può capitare a un ragazzo di 30 anni e non capitare a una signora di 60 anni. Sono qua. E adesso è arrivato il nostro consiglio di lettura e poi abbiamo Claudia da Venezia e continueremo a occuparci di questo dito tosto che ci dà qualche problema, il nostro pollice. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa un libro che abbiamo proprio pensato ad hoc per la puntata di oggi, Riflessologia della mano, esercizi per la salute e il rilassamento. Come sempre vi ricordo che per ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con ibs.it. Andiamo a Venezia. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Lei abita Venezia? Venezia, esatto. Che fortuna. Va bene, allora veniamo lì tra le calli. Che succede ecco, alle sue mani? Sono una mamma, una bimba di 3 mesi e ho quel classico dolore al pollice per questa infiammazione del tendine, sì, che penso che colpisca la maggior parte delle mamme. E infatti, come diceva il professor Paiardi, insomma, l'ha detto un po' delle mamme che fanno l'uomo ragno. Adesso... Esatto. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Anche perché non fare più certi movimenti è impossibile, perché questi bimbi, certo, hanno bisogno di attenzione, di essere presi caspita, in braccio. Intanto auguri, Claudia. Grazie. E io divido un po' il problema, tra virgolette, di Claudia tra il professor Paiardi e la dottoressa Guidi. Dottoressa Guidi, vuole iniziare lei? Claudia dice non si può star fermi, lei lo sa bene, essendo donna, essendo mamma, che i piccini non aspettano. Quindi Claudia cosa può fare? Diciamo, per alcune ore del giorno e della notte comunque è consigliabile stare fermi e quindi utilizzare il tutore. Sì. Sicuramente noi dobbiamo insegnare a evitare certi movimenti. Ecco, il proviamo. Movimento principale da insegnare è il movimento che la persona non deve spostare il polso verso il mignolo, in termine scientifico si chiama deviazione ulnare. Comunque noi sappiamo che ogni volta che la persona sposta il polso verso il mignolo e allarga anche il pollice, si può incrementare il dolore. Questa posizione si utilizza anche quando una mamma spinge un carrettino, sì, la carrozzina del bambino, e quindi cercare di tenere il polso in asse, con il polso più diritto possibile, sì, quando si mette il bambino sul carrettino. Ora io non so a Venezia se si riesce, non so, per le scale a utilizzare questo tipo di mezzo di trasporto. E poi l'altra cosa è cercare di tenere fermo il pollice il più possibile, cercare di evitare di fare tanti movimenti con il pollice. Allora, quindi già alcune indicazioni, soprattutto le cose da evitare. Professor Paiardi, anche l'intervento è da evitare in questo caso, oppure bisogna passare la mano a lei? Ma dunque, diciamo che io completerei quanto diceva saggiamente Giulia. La mano di per sé è un segmento che spesso non possiamo permetterci il lusso di lasciare immobile, e non è soltanto il giocatore di basket o il motociclista che ha il gran premio e vuole essere aggiustato. Chiunque voglia semplicemente lavarsi e vestirsi, dicevamo prima, ha bisogno della maggiore possibilità di manualità. Si tratta quindi di essere selettivi nell'immobilità, cioè ridurre il movimento della parte ammalata e lasciare implementare, cioè incrementare il movimento delle altre dita. Proprio per questo il tutore, l'esercizio, ma soprattutto il tutore deve essere specifico, perché se al di là della misura del dito, della mano evidentemente, ma è sufficiente che sia un centimetro più alto o più basso e immobilizza un segmento anatomico completamente differente. In quei casi in cui non ci sia un beneficio col trattamento riabilitativo, e specifico che se il trattamento riabilitativo è corretto e tempestivo, più dell'80% dei casi ha una risoluzione definitiva per tutta la vita, e quindi sarebbe stolto quantomeno, sì, dare un'indicazione chirurgica ad Amblè, ci può essere l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico comporta l'allargamento del passaggio di questo tendine, è un concetto del tutto assimilabile al dito a scatto, cioè si tratta di creare più spazio per un tendine. La tecnica più moderna anche qui è quella endoscopica, perché permette di evitare il taglio corrispondente alla sede di lesione, e in questo modo il paziente può avere totale movimento, lavare le mani e non avere limitazioni legate al gesto chirurgico. Prima era la patologia e poi è l'intervento. Certo. È molto importante rammentare che nel mondo, diciamo, del nostro apparato locomotore, del nostro organismo, ma soprattutto nella mano, che sia un trauma, che sia una patologia, che sia un intervento, in tutti i casi c'è un protocollo riabilitativo dopo. Quindi, se vogliamo dare un elemento di valutazione ai nostri ascoltatori, di stabilire se il presidio terapeutico, il tipo di intervento, la tecnica che viene esposta dallo specialista che lo sta visitando, mi scusi il termine, puzza di buono, cioè effettivamente è qualcosa che è ammiccante, che funziona. Faccio una domanda molto semplice e gli dice: ma dopo l'intervento cosa faccio? Se questo gli risponde prende una pallina e fa gli esercizi da solo, la cosa migliore è cambiare chirurgo. Sì, buttargli la pallina in testa e scappare. Allora, buona indicazione, anzi io la ringrazio, perché tante volte si dice bisogna rivolgersi a persone competenti, e però tante volte noi non abbiamo gli strumenti per capire se uno è bravo o insomma se puzza di buono, come dice lei. Elena di Parma, da Parma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola. Che succede a Parma, Elena? Purtroppo succede il dito a scatto dal mese di ottobre, che soprattutto la mattina ha dato molto fastidio. E tanto è che ho dovuto chiedere un aiuto. Allora, sono andata dal dottore, infatti mi ha fatto un'infiltrazione proprio nell'articolazione. Che dito è a scatto, Elena? Il pollice. Il pollice, perché ci possono, anche altre dita possono, certo, avere la stessa condizione, per questo glielo chiedevo. Quindi le ha fatto un'infiltrazione, dobbiamo essere un po' rapidi che così andiamo a darle una risposta, Elena? Sì, quindi chiedevo, a questo punto è vero che è passato, durante la giornata riesco a muoverlo senza problemi, però di notte qualcosa deve succedere per forza, perché la mattina non riesco più a muoverlo, rimane rigido. Sì. Che fare la mattina? Fare un po' di... passare un po' di creme antinfiammatori, oppure fare un po' sappiamo, di plastica. Senta Elena, suo marito non c'entra, non è che di notte le fa un dispetto al pollice, glielo fa mettere, eh? No, assolutamente. Bene. No, il marito non ha colpa, quindi deve essere colpa di questo pollice. Professor Paiardi, in 30 secondi prima di salutarci. Diciamo che nella mano l'indicazione per le infiltrazioni è scarsissima. Potrei essere più sincero, non c'è proprio, perché infiltrare vuol dire mascherare il disturbo ma lasciare il problema. Infatti, quindi, lei di male, e di fatti male. Nel momento in cui lei, come dicevamo prima, non muove, aumenta la ritenzione dei liquidi, si riempie il canale e non muove. Dirò di più, che molto spesso infiltrando il paziente continua a usare come prima la mano, perché non ha più male, la utilizza in modo errato, come diceva la dottoressa Guidi, perché non corregge e quindi porta avanti il problema. Quindi adesso la fase acuta è superata comunque in modo più o meno corretto, rimane l'indicazione per il trattamento riabilitativo. Allora, trattamento riabilitativo, dottoressa Guidi, io la ringrazio per essere stata con noi, torneremo a parlare dei riabilitatori della mano, intanto se volete c'è il sito dove potete trovare questi ultra specialisti. Grazie dottoressa Guidi. Grazie a voi, buona giornata. Professore, grazie per essere venuto a trovarci. Grazie e a lei, a ci presto. Sentiamo presto, noi invece ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto.